svegliarmi una mattina e poi sentirti ancora più vicino, sognare su di un prato noi nei colori di primavera, l'accenno di un sorriso e poi un tuffo negli occhi tuoi, volare in alto sino a blu con te. Mi avvolge il tuo calore e poi l'ebbrezza ancora più del vino, le stelle accenderà per noi, cielo caldo dell'estate, sdraiati sulla spiaggia puoi sognare tutto ciò che vuoi, stella di un'orsa su. Poi saranno sempre qui le stagioni della mia vita, vanno sempre avanti e noi sappiamo che non è finita. Forse sarà una stella e ricordarmi da lassù, quando una storia è bella non si scorderà mai più. Storia è bella.